l'associazione Antigone Emilia Romagna ha concluso a dicembre le visite all'interno degli istituti penitenziari della regione. Siamo entrati in tutti i 10 istituti per adulti e abbiamo potuto visitare anche l'istituto penale per i minorenni di Bologna. Diciamo che in Emilia Romagna si conferma un alto tasso di presenza all'interno dei vari istituti, riprendendo appunto le statistiche del Ministero della Giustizia. A fine dicembre in Emilia Romagna c'erano 3.407 detenuti, poi saliti a fine gennaio in realtà 3.428 su una capienza regolamentare di 2.984 posti. Tra questi detenuti si conferma un alto numero di condannati in via definitiva e devo dire appunto che dalle visite del 2022 emerge un quadro completo che è dovuto in realtà anche chiaramente alla presenza di numerosi e diversi circuiti all'interno dei singoli istituti. In Emilia Romagna vi sono istituti anche fortemente diversi. Abbiamo registrato diverse difficoltà, soprattutto relative ai percorsi di presa in carico trattamentale. Ci sono molti appunto condannati in via definitiva e a questi non corrisponde in realtà in molti casi un numero adeguato di funzionari giuridico-pedagogici. In realtà questo è un elemento che si ripresenta negli anni. Nel corso delle visite del 2022 posso citare alcuni casi, ad esempio nel corso della visita fatta a Modena a maggio, a fronte di 229 persone condannate in via definitiva erano soltanto 3 gli educatori. A Reggio Emilia, nel corso della visita che abbiamo fatto a dicembre, è stato riferito che ci sono stati periodi in cui era presente un solo educatore. Peraltro Reggio Emilia è un istituto ad alta complessità perché ha al suo interno diversi circuiti, o Ravenna, che pur essendo un istituto di piccole dimensioni, un istituto che comunque è e ha una vocazione fortemente trattamentale, su 50 definitivi era presente una sola operatrice. Questo lo abbiamo rilevato nella nostra visita di novembre. Tra le altre criticità si registrano in alcuni casi delle condizioni strutturali particolarmente precarie, e in generale sono istituti piuttosto datati, ma in alcuni casi abbiamo registrato problematiche puramente più rilevanti, problematiche che necessiterebbero di interventi di manutenzione straordinaria. Sempre nell'istituto di Reggio Emilia abbiamo riscontrato gravi problemi di infiltrazione. In realtà è un problema che conosciamo già. A Parma, casa di reclusione, istituto di grosse dimensioni, al momento della nostra visita, che era sempre dicembre 2022, non funzionava il riscaldamento nelle sezioni di media sicurezza del vecchio padiglione. Questo era tra l'altro un aspetto che era già stato registrato anche dal garante regionale nella sua visita qualche settimana prima della nostra. Ravenna, che è un istituto piccolo ma posto all'interno di una struttura piuttosto vetusta, anche in questo caso non presenta spazi adeguati di fatto per lo svolgimento delle attività trattamentali, che però devo dire in questo caso sono assolutamente presenti. Ecco, diciamo che il 2022 ha portato a registrare una criticità invece che ci preoccupa, e questo insomma l'abbiamo riscontrato in quasi la totalità degli istituti, sia quelli emiliani, quelli romagnoli, e riguarda una forte carenza di personale medico e sanitario. E questo appunto riteniamo sia un tema che va affrontato, anche considerato chiaramente l'alto numero di presenze. In alcuni casi appunto non c'era le referenze ASL, come è il caso appunto di alcuni istituti della Romagna, o ancora appunto si registrava un'insufficienza sostanziale di medici e infermieri, come nel caso di Bologna, che peraltro registra e continua a registrare alti tassi di presenze. Per quanto riguarda invece l'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna, quello che abbiamo potuto valutare è stato sicuramente un aumento anche in questo caso di presenze, perché si è passati da 22 ragazzi a 40. Anche in questo caso devo dire che a questo aumento di presenze non è corrisposto a un adeguamento del personale, soprattutto dal punto di vista educativo, con le ovvie conseguenze dal punto di vista di presa in carico e di avvio di percorsi trattamentali. Questo aumento delle presenze è dovuto peraltro all'invio in questo istituto di ragazzi che provengono in realtà anche da altri territori fuori regione, questo soprattutto a seguito della chiusura dell'IPM di Treviso e a fronte di alti tassi di sovraffollamento che si registrano negli istituti di, ad esempio, di Milano e Torino. Questo, certo, ecco, è un po' il quadro generale delle nostre visite.